occhi fantasmi dentro a nuovi pensieri che sbiadiscono le certezze in mezzo ai miei perché. Di far valere la vostra onestà.